Essere e benessere di Nicoletta Carbone. Non è facile guardare in faccia la trasformazione. È il mio corpo che cambia. Il nostro corpo cambia, si trasforma di continuo e manda messaggi. Racconta il nostro stile di vita, tradisce la nostra età anagrafica, il nostro umore, le nostre emozioni. Perché, come ben sappiamo, il nostro modo di essere condiziona il nostro modo di stare. Molti nostri blocchi, tante nostre tensioni sono anche proprio frutto del nostro sentire emotivo. Ma non solo, lo sappiamo bene, a pesare ci sono anche gli anni, la mancanza di attività fisica o al contrario l'eccesso, le posture sbagliate. Vogliamo parlarne oggi insieme e soprattutto vogliamo provare a capire come coltivare o perché no, ritrovare quella flessibilità che ci aiuta a stare bene nel corpo e nella mente. 800 24 00 24 ci aiuteranno come sempre tanti esperti. Il primo è il dottor Gianluca Melegatti, medico sportivo e primario del centro di riabilitazione dell'Istituto Ortopedico Galeazzi di Milano, che è qui in studio con me. Buongiorno. Buongiorno Nicoletta. Dottore, iniziamo con lei a lavorare sul corpo, che spesso, senza che noi ce ne rendiamo conto, è teso e direi contratto. In realtà è un po' il segno dei nostri tempi, siamo costretti a assumere posture bloccate al lavoro, in macchina, alla scrivania, e questo ci irrigidisce, e quindi il ritrovare un po' la flessibilità perduta è fondamentale per stare meglio, per vivere meglio. Perché con gli anni ci irrigidiamo anche nel modo di affrontare le cose, diventiamo certo, più rigidi, non no? Solo mentalmente ma anche fisicamente purtroppo. Quindi in pratica, dottor Melegatti, dato che questa è una situazione che si trasforma, a cui si arriva col passare degli anni e che ci cambia, potremmo chiedere ai nostri ascoltatori che età vi danno e che età vi sentite? Insomma, che cosa hanno regalato gli anni ai vostri muscoli, alle vostre articolazioni? Parleremo naturalmente anche poi di mente e di emozione, al vostro stare, al vostro occupare, certo, l'ambiente che vi circonda e al come proprio vi muovete nell'ambiente. Test the spalla, baby. One, two, three. Test the spalla, baby. One, two, three, test the spalla, baby. One, two, three, cola cola, baby. One, two, three, cola cola, baby. One, two, three, cola cola, cola cola, test the spalla, baby. One, two, three, punta d'acqua, baby. One. Beh, però è una parola, perché a volte ci sentiamo rigidi come baccalà. Un classico è quando, a proposito di testa colla, dobbiamo girare il collo per fare manovra per parcheggiare, oppure quando, alzandoci dalla sedia, ci sentiamo un po' tutti arrugginiti, indolenziti, no? Abbiamo proprio voglia di stiracchiarci un po', certo, come i gatti, oppure sentiamo le spalle pesanti, come se avessimo portato uno zaino per tutta la giornata. Certo, ed è una sensazione molto comune a tutti noi, a tutti quelli che sono costretti a lavorare ore in una posizione fissa o davanti a un computer o a una scrivania, insomma a una postazione di lavoro. È postazione di lavoro che non favorisce la flessibilità soprattutto di due aree strategiche del corpo: l'area del collo, delle spalle e del tronco, del dorso soprattutto. Immaginiamoci seduti in una posizione non corretta, molto spesso ci troviamo con le spalle in avanti, ci troviamo con il dorso un po' curvo, un po' rattrappiti. Sta guardando me, si sta ispirando a me, no, guarda che non lo invito più E allora c'è un piccolo test che potrebbe essere utile per capire a che punto siamo. Sì. E questo test è molto semplice. Immaginiamo di stare ben eretti, da seduti. Portiamo la nostra mano destra dietro alla nuca, dall'alto, quindi dietro alla nuca, e facciamo scendere la mano e appoggiamo il palmo della mano destra alla nostra schiena. Sì. Con la sinistra risaliamo dal basso, veniamo su, e appoggiamo il dorso della mano alla nostra schiena e cerchiamo di arrivare alla mano destra. Sì. Qualcuno ci deve dire che distanza abbiamo sviluppato, o lo facciamo da noi guardandoci allo specchio, oppure qualcuno ci dirà quanto manca. Se manca qualche centimetro, la situazione non è per niente buona. Se riusciamo ad arrivare a toccare le dita, la situazione diciamo che è sufficiente. Se riusciamo ad aggrappare le dita, ad afferrarci le dita, la situazione è buona. Se riusciamo addirittura a stringerci la mano, le due mani, la situazione è ottima. Ma è Questo è fantastico. un test veramente importante perché valuta la situazione delle spalle e del dorso ed è una cosa che dovrebbe fare chiunque. Allora, la distanza, diteci se le due mani sono distanti e di quanto, se si sfiorano, se si sovrappongono, Le se si dita, inter le dita, si toccano le dita, o se addirittura si si riesce, danno ci la si riesce, mano. si danno la mano. 800 24 00 24, se volete intervenire, raccontarci anche che età vi danno e che età vi sentite, perché spesso è proprio l'immagine che diamo agli altri che fa dire, beh, questa è una persona giovane, che si è mantenuto giovane, quanti anni avrà? Ma tante volte gli altri ci danno un'età e noi ce ne sentiamo un'altra. 800 24 00 24, il test suggerito dal dottor Melegatti ce l'ha fatto toccare un po' con mano. Dottore, ciascuno di noi, lo sappiamo, ha il proprio tallone d'Achille. Chiederei, ci ha suggerito questo esercizio per misurare la nostra flessibilità, ma ci sono delle persone che magari sono flessibili in una parte del corpo un pochino più rigide nelle Certamente, altre. certamente. Mi viene in mente un test che è molto utilizzato da noi quando facciamo le valutazioni della flessibilità ed è il test, del raggiungimento, con la punta delle dita dei piedi. Vale a dire, si chiede al paziente, tenendo le ginocchia diritte, di arrivare giù a toccarsi la punta dei piedi. Ci sono dei pazienti che questo riescono a farlo, ma riescono a farlo magari solamente perché hanno una grande flessibilità del tronco e hanno una grande rigidità delle gambe, o viceversa. Allora, è bene valutare nell'insieme questi test e capire se ci sono delle zone contratte, come possono esserci, e delle zone invece flessibili. È chiaro che, come lei diceva, tutti abbiamo il nostro tallone d'Achille, e questo dipende un po' dalla nostra struttura, dipende anche, queste sono situazioni anche geneticamente determinate, perché la contrattura muscolare e la rigidità articolare e muscolare hanno una componente genetica, però è migliorabile naturalmente, è migliorabile, bisogna sapere dove andare ad agire con esercizi specifici, ci vuole qualcuno che sia in grado di darci dei buoni consigli. Ecco, qual è la persona che è in grado di darci buoni consigli? Tutte quelle persone che valutano in maniera completa, non soffermandosi al particolare, ma valutando la persona nel suo insieme. In genere il fisiatra, l'ortopedico, il medico dello sport, sono L'osteopata, l'osteopata, il assolutamente kinesiologo, il il. kinesiologo. Ci sono tante figure professionali che sono in grado di fare una valutazione corretta e di darci dei buoni consigli in termini di esercizi di stretching appropriati. Di questo parleremo naturalmente sull'importanza dello stretching, ma io vorrei restare al dottor Melegatti a questa sensazione di indolenzimento, perché è importante localizzare il punto, ma immagino anche capire se lo avvertiamo dopo il riposo, dopo l'attività fisica, ad esempio, oppure durante, dopo aver mantenuto per tanto tempo la stessa situazione, la stessa condizione, la Certo. stessa posizione. In effetti sono situazioni frequenti durante le quali ci ritroviamo contratti. Per esempio, dopo una nottata, è possibile che ci si trovi contratti Una perché nottata in discoteca, una nottata in discoteca, pensavo. magari con un livello di alcol un po' superiore a quanto dovremmo, potrebbe non favorire un buon sonno e quindi quando non dormiamo bene o per il materasso oppure perché abbiamo dei pensieri, allora è facile trovarsi al mattino rattrappiti. Allora ci sono naturalmente delle cose molto semplici da fare, vale a dire qualche esercizio di stiramento, ricordiamoci come si stirano i gatti e facciamolo prima di scendere dal letto, semplicissimi stiramenti di Prima qualche di mettere secondo. ancora i piedi per terra, vero? Perché Esattamente. questo, dottore? Questo perché è più sicuro dal punto di vista proprio dell'evitare contratture muscolari che potrebbero anche verificarsi immediatamente. Certo. E quindi qualche secondo di buon stiramento delle braccia, delle gambe, del tronco, portare le ginocchia al petto, far cadere le ginocchia di lato, stirarsi esattamente come fanno i gatti e poi alzarsi dal letto e magari fare qualche piccolo esercizio di allungamento della muscolatura posteriore delle gambe, per esempio, ma magari ne parleremo. Possiamo poi usare anche l'acqua per sciogliere le tensioni e per Certo. restituire tono e anche flessibilità a tutto il nostro apparato Certamente. muscolare. Il classico della doccia che adesso calda, fa troppo caldo, ma la doccia alternata o la doccia Certamente. tiepida La può doccia sicuramente. tiepida favorisce senz'altro una riattivazione muscolare e quindi un riscaldamento della muscolatura, perché poi in fondo è proprio per recuperare la mobilità perduta, si parte proprio dai muscoli, naturalmente. Io vorrei sottolineare che questa sensazione di ruggine, i consigli antiruggine che stiamo dando, non sono solo dedicati alle persone che sono avanti negli anni, perché la ruggine purtroppo è una conseguenza della sedentarietà, non solo degli Assolutamente. anni, e delle posture che Assolutamente. adottiamo scorrette, anche in tenera età, Certo, dottore. del sovrappeso. Ci sono purtroppo tanti bambini sovrappeso. La situazione sta migliorando rispetto a solo pochi anni fa, però non è così buona come decenni fa, quando c'era possibilità di far muovere i nostri bimbi e i nostri ragazzi in maniera maggiore di quanto possono fare adesso. E quindi il movimento, che deve essere un movimento costante, però deve entrare come abitudine di vita per i piccoli e per i grandi. Qualche esercizio di stretching mirato, stiamo parlando sempre di consigli antiruggine. Sì. Per le persone più anziane ne avevamo già parlato tempo fa. Condroprotettori, ci sono degli integratori che sono utili da assumere proprio per cercare di controllare l'aspetto degenerativo delle nostre articolazioni, che poi si traduce in perdita di movimento e di rigidità col tempo. Il controllo del peso, l'alimentazione è fondamentale per cercare il movimento e quindi mantenere le nostre giunture ben lubrificate. Non entro più nei vestiti, non entro. Sì, ma con cautela, Ugo, con prudenza, la tua età. Ma che prudenza, ma che età? Pina! Il colpo della strega! Oh, santo cielo, Ughino, ho appena finito di dirtelo. Oddio, mi sono bloccato. Dove ti fa male? La schiena. Qui? Sì, hai. Santo Dio, Ughino. E povero Ughino, dottor Melegatti, ecco il blocco, il colpo della strega è improvviso, però non ci si muove più, Sì, può essere veramente devastante il colpo della strega. Poi, fortunatamente, nella stragrande maggioranza dei casi si risolve in fretta. Si risolve con un po' di movimento ben fatto, intanto con un po' di riposo, con qualche farmaco, e si riesce a risolvere. Molto spesso, come dicevo, è causato da una contrattura muscolare, a meno di problemi più gravi, problemi di scali, dei quali Certo, le non cose da non parleremo. fare col colpo della strega? La cosa da non fare col colpo della strega è stare troppo a riposo, stare a letto troppo tempo, sperando che l'immobilizzazione possa risolverlo, e invece bisogna cercare di muoversi con cautela, magari esporsi a una doccia tiepida e ritrovare il movimento. Quindi non, ci sono dei consigli di buon senso. Sì. Bisogna aspettare che la strega prenda la scopa e Sì, se ne vada. è perché Insomma, poi nel giro di 3 o 4 giorni. anche meno nel giro di Ecco, paio di giorni ci se ne sono va. persone che però ripetutamente si rimangono bloccate. Un consiglio. Beh, allora intanto un consiglio di approfondire un po' la situazione, perché potrebbe comunque essere una situazione legata al ripetersi di blocchi muscolari. Allora bisogna capire perché questa persona va incontro così facilmente a queste contratture muscolari. Bisogna un po' esplorare più aspetti, aspetti anche psichici, se vogliamo, di tensione emotiva, oppure aspetti più aspetti meccanici, per vedere se questa persona è davvero così rigida, se ha qualche patologia celata che deve essere ben valutata. Insomma, vale sempre, se il problema persiste e si ripresenta, meglio consultare il medico. Assolutamente. La flessibilità, come ha anticipato il dottor Melegatti, sappiamo che si può guadagnare anche a tavola. In linea con noi è tornato a trovarci il dottor Massimo Gualerzi, cardiologo, esperto di prevenzione e riabilitazione cardiometabolica, autore con Claudio Rinaldi di Super Salute. Buongiorno dottor Gualerzi, bentornato. Buongiorno, grazie a voi. Dottore, lo anticipava il dottor Melegatti, ci sono alimenti antiruggine per le nostre articolazioni, quali sono? Sì, diciamo che l'alimentazione come sempre ci aiuta un po' a prevenire un po' tutto, no? E quindi a tavola ci si può veramente curare. Diciamo che dobbiamo, per mantenere lubrificate le nostre articolazioni, diciamo alimentarci con cibi ricchi di glucosamina. La glucosamina è una costituente proprio tipica delle cartilagini, però è un po' difficile trovarla in natura. Ne sono ricchi ad esempio i carapaci, cioè i gusci dei crostacei, che abitualmente logicamente non mangiamo, ma la possiamo anche trovare in un semplice brodo di pollo fatto ad esempio con le ossa di pollo, con le ossa di manzo. Quindi un bel brodo, come faceva la nonna, diciamo, può essere veramente molto utile per, diciamo, giovare le nostre articolazioni. Anche l'aloe vera ha proprietà lubrificanti, sono usciti molti lavori di recente che bere, diciamo, 2 o 3 cucchiaini di succo di aloe 2 o 3 volte al giorno può essere molto utile nel mantenere una sana, diciamo, elasticità e trofismo delle nostre cartilagini. Dobbiamo tenere da conto che quando parliamo di articolazioni e quindi di mantenere in salute il nostro apparato, diciamo, articolare, dobbiamo anche guardare i tendini, quindi le strutture molli, i muscoli e i tendini. E qui abbiamo bisogno invece di proteine, di aminoacidi come la prolina, la cistina e l'arginina, che sono molto, diciamo, le troviamo in abbondanza nelle proteine, diciamo, della soia, quindi ad esempio il tofu, una buona insalata di tofu adesso che può arricchire un'insalata normale, verde, ecco, che può aiutarci anche a guadagnare salute nelle articolazioni. Abbiamo parlato la settimana scorsa della spirulina, che è un'alga, anche la spirulina ha delle proprietà molto utili nel giovare, diciamo, ai tendini e ai muscoli. Infine, quando parliamo di articolazioni parliamo anche di osso, e una regola molto semplice ma assolutamente efficace è quella di, se vogliamo mantenere un osso, diciamo, trofico, sano, robusto e quindi giovare alle nostre articolazioni, è di evitare il sale. Quindi più di mangiare qualcosa, direi di non mangiare il sale. Oggi ne consumiamo circa 12 grammi al giorno, ne dovremmo mangiare 6, diciamo che molti i salumi e i formaggi ne contengono tanto, tantissimo, e spesso quando mangiamo un panino con dentro del salume e del formaggio abbiamo già mangiato più di quello che dovremmo mangiare in un'intera giornata. Quindi stiamo attenti, perché quando mangiamo il sodio, quando mangiamo il sale, in realtà il nostro organismo non lo riesce ad eliminare, e al posto del sodio va ad eliminare il calcio. Quindi ogni volta che mangiamo sale buttiamo fuori del calcio, andando ad indebolire le nostre articolazioni. Quindi un consiglio semplice: non mangiamo o stiamo attenti al sale. Quindi, dottor Gualerzi, lei ci ha dato una dieta per i nostri tendini, per le nostre cartilagini, per i muscoli. Abbiamo parlato di soia, di aloe, di brodo che contiene la glucosamina, ma io vorrei parlare di un'altra rigidità, dottor Gualerzi, che non si fa né sentire né vedere, almeno a occhio nudo, ma che rischia di essere molto pericolosa, è la rigidità delle nostre arterie. Sì, per noi cardiologi in realtà è pane quotidiano, oggi che ci sono gli strumenti tecnici per andarla a vedere viene studiata, però nella vita di tutti i giorni, spesso non dando i disturbi che può dare una rigidità articolare, viene sottovalutata dalle persone. Anche lì la rigidità dei vasi, delle arterie, è dovuta a una riduzione delle fibre elastiche e del collagene, che un po' avviene per il semplice fisiologico invecchiamento, ma è sicuramente aggravata e velocizzata dai fattori di rischio classici cardiovascolari, in primis l'ipertensione arteriosa. Quindi l'ipertensione tende ad irrigidire le nostre arterie. Un modo molto semplice per valutare la rigidità delle nostre arterie è quella di misurarci la pressione, perché se ad esempio la pressione massima e minima sono tra la massima e la minima c'è una differenza superiore ai 50 mm di mercurio, cioè sottraendo la pressione massima, ad esempio 120, alla minima, in questo caso 80, diciamo banalmente. Ecco, se questa differenza supera i 50 mm di mercurio, ecco, questa è un'espressione di rigidità dei nostri vasi. La differenza tra la massima e la minima si chiama pressione differenziale o pulsatoria, e tanto più ed elevata, tanto più elevata, tanto più espressione di rigidità dei vasi. Noi sappiamo che la rigidità dei vasi è foriera poi di malattie cardiovascolari, quindi è bene controllare e valutare che questa pressione non differisca fra la massima e la minima in modo eclatante. Non deve superare i 50 della differenza? No. Questo per il benessere delle nostre arterie. Dottor Gualerzi, grazie, i suoi consigli ci fanno davvero stare bene, sono molto utili, ci sentiamo prestissimo, le auguro una buonissima giornata. Grazie a voi, arrivederci. E noi andiamo da Raffaella che ci chiama da Roma, intanto vi ricordo il nostro numero verde per intervenire, per la felicità anche del nostro centralino che è lì pronto a rispondere. Raffaella, buongiorno. Buongiorno. Mi sente? Io benissimo, e lei? Perfetto, sì. Allora benissimo. Andiamo. Allora, dunque, ho eseguito il test che ha proposto il dottor Melegatti, io ho 51 anni, ho una protrusione nella zona lombare. Sì. E, braccio destro, alzando prima il braccio destro e poi facendo seguire il sinistro, è perfetto, mi abbraccio completamente e mi stringo la mano. Viceversa, alzando prima il sinistro, mi tocco appena la prima falange delle dita. La mattina mi sveglio spesso indolenzita nella parte lombare, sì, e quindi porto le ginocchia al petto. Istintivamente mi sono trovata poi a fare quegli esercizi di allungamento che il professore suggeriva, e niente, volevo appunto perché il dottor Melegatti ha omesso, no? Secondo me naturalmente ci siamo dimenticati, no, di dire perché voleva stimolare la nostra curiosità, e lì infatti chi ha provato verrà premiato. Perché che differenza c'è tra chi riesce a farlo da entrambi i lati e per chi invece trova difficoltà? È chiaro che se uno non riesce a farlo in un lato è perché a livello del cingolo scapolomerale di quel lato c'è qualche problema, e quindi però direi che comunque anche dall'altro lato mi pare che la situazione della signora Raffaella sia soddisfacente, voglio dire, mi pare che lei riesca ad arrivare a toccarsi le dita, e questo è già buono. Bisognerebbe non perdere questa situazione, sarebbe già molto utile che la signora non perdesse questo, e quindi oltre a quegli esercizi molto utili che lei fa al mattino per riattivare la muscolatura del tronco e riattivare e recuperare il movimento a livello lombare, lei aggiungesse anche qualche semplice esercizio per gli arti superiori, vale a dire stirarsi bene, elevare bene le braccia, entrambe le braccia, provare a portarsi la mano dietro alla schiena cercando di farla salire, cercando insomma di fare esercizi che aumentino l'escursione articolare a livello del cingolo scapolomerale. Un messaggio ci arriva al 349-238-6666. La piscina, è tempo di piscina, di bagni, va bene se si hanno delle contratture muscolari? Direi di sì, stiamo solo un po' attenti alla temperatura dell'acqua, però in genere sì, va decisamente bene, perché il movimento in acqua è un movimento assolutamente controllato, molto dolce, che permette l'allungamento muscolare e il recupero della mobilità articolare senza problemi. Attenzione, si pensa spesso che la rigidità, la mancanza di flessibilità sia tipica delle persone sedentarie. In realtà anche chi fa sport a livello naturalmente amatoriale può avere proprio le stesse sensazioni che avvertono i sedentari. Essere e benessere. Rigidi o flessibili, 800240024, sportivi o sedentari. Alfredo, buongiorno, ci chiama da Varese all'800240024. Alfredo, buongiorno. Sì, buongiorno, complimenti per il programma. Volevo porre una domanda al dottor Melegatti. Io accuso questo problema da 3 settimane a questa parte, difatti stiamo facendo delle indagini. Allora, cosa mi succede? Dopo che scendo dal mio mezzo, può essere un furgone o una macchina, talvolta accuso qualche secondo di diciamo di giramento di vista, giramento, e accuso anche dei bollori, no? Mi è successo circa 3 settimane fa, sono andato dal medico e così via, e adesso facendo degli esercizi diciamo per la cervicale, cosa mi succede? Ruotando in iperstensione il capo a destra, io ho questi sintomi di vertigini, giramento di testa, no? E bollori. Allora riporto il capo nella posizione diciamo normale e spariscono. Volevo chiedere al dottore se gli avesse capitato. Deve stare con la testa ben messa sul collo. Certo. Allora, intanto, senza che lei si debba allarmare, questa è una situazione che va affrontata in modo approfondito. Bisogna fare delle valutazioni, bisogna valutare bene il tratto cervicale con una risonanza magnetica, e bisogna, io consiglierei di fare anche un eco Doppler dei vasi del collo per capire se c'è anche un problema a livello proprio della vascolarizzazione. Però il più delle volte si tratta di problemi legati a un po' di sofferenza di uno dei dischi cervicali o di un po' di artrosi. Però ecco, direi di approfondire con una persona di sua fiducia, un professionista di sua fiducia che la possa seguire. E andiamo a Roma, c'è Francesco. Buongiorno Francesco. Buongiorno. Eccoci qua. Francesco? Io volevo fare... Sì. Sì, mi la sento. Volevo fare questa domanda. Io ho fatto delle indagini avendo dei problemi di mal di schiena nella zona lombare. Mi è stata diagnosticata una leggera protrusione e schiacciamento, ma mai considerata grave. Io faccio un'intensa attività sportiva, nel senso che nuoto 2-3 volte a settimana e faccio ciclismo 2 volte a settimana, con un impegno di 1 ora, 1 ora e mezza ogni volta. Accuso spesso dei dolori lombari, però data la passione dell'attività che faccio ci convivo, ogni tanto prendo degli antidolorifici. Faccio male o faccio bene? Allora, antidolorifici per spegnere il dolore e continuare a muoversi, una buona idea. Qualche antidolorifico ogni tanto lo si può prendere, però bisogna capire perché, insomma, se lei è una persona attiva che fa tutta questa attività sportiva non può continuare a fare questa attività col dolore. Allora direi di inquadrare il problema e cercare di capire se questo mal di schiena è un mal di schiena che proviene da una... ha un problema discale di un disco intervertebrale, oppure se è un problema legato magari a un po' di instabilità lombare. Bisogna fare una valutazione cinesiologica, clinica, e magari valutare anche la posizione in sella. Se non l'ha già fatto, è bene capire, verificare se tutti i parametri legati a una corretta posizione in sella nel suo caso sono rispettati. Dottor Melegatti, abbiamo prima dei mercati invitato i nostri ascoltatori a dirci se sono sedentari o se sono sportivi, perché sembra che comunque la rigidità, il dolore, questo senso di indolenzimento interessi sia l'ascoltatore che la persona che è attiva, sia quella che invece ama stare in poltrona. Certo. Naturalmente le cause sono differenti. E nello sportivo quali possono essere le cause? Una eccessiva attività sportiva oppure un'attività sportiva praticata in modo non adeguato? Ma direi il tipo di attività sportiva anche va valutato. Ci sono delle persone che sviluppano un ipertono, vale a dire hanno un tono muscolare di base più elevato rispetto ad altri, e se queste persone si cimentano in attività sportive che privilegiano esercizi di potenza, esercizi ripetuti, veloci, possono andare incontro a problemi di rigidità, a maggior ragione se non associano a questa situazione anche un lavoro di stretching ben fatto e costante. Quindi, dottore, tradotto in parole semplici, le persone che hanno una massa muscolare... Persone già... che vanno in palestra, sì, che fanno attività sportiva, che fanno bodybuilding, che sollevano pesi, che giocano a calcetto, è possibile che sviluppino un eccessivo tono muscolare. Questo si traduce in rigidità muscolare, e a queste persone deve essere consigliato anche una attività di allungamento e di stretching adeguato. Prima e dopo l'allenamento. Qui è un po' controverso, sì, l'argomento. In genere è bene fare sempre dopo l'attività sportiva allungamento muscolare. Prima dell'attività sportiva ci sono delle situazioni per le quali uno stretching troppo prolungato e troppo aggressivo può diminuire la capacità di sviluppare potenza muscolare, e quindi per quegli sport che prevedono brevi performance molto intense e di tempo che si sviluppa in pochi secondi, potrebbe non essere consigliato. E andiamo ad Antonio, che ci chiama da Salerno. 800 24 00 24. Benvenuto Antonio, grazie. Salve. Eccoci. Salve, qua. Buongiorno. Buongiorno a lei. Allora, tanto ascoltavo con molta attenzione i consigli del dottore. Io, ecco, volevo chiedere, mi è stata diagnosticata un po' di tempo fa una discopatia con una sostanza, una piccola ernia al disco, e mi è stato consigliato il nuoto come attività fisica da praticare per poter aiutare la schiena, ecco, a rimettersi in sesto. Però siccome gioco a tennis, volevo chiedere al dottore quale può essere il modo per sforzare il meno possibile la schiena ed evitare che questo dolore, che periodicamente mi ritorna, per evitare che questo accada. Certo, perché ci sono attività sportive e attività sportive, e devono in qualche modo aiutarci a superare eventuali problemi o a mantenere il nostro benessere senza sforzare troppo articolazioni e apparato elettrico. È così, in effetti prese di per sé queste due discipline, il nuoto e il tennis, Non dovrebbero creare problemi anche in presenza di una patologia discale con una piccola ernia. Intanto bisogna verificare il tennis se è giocato su un terreno sintetico o sulla terra rossa. È bene sempre privilegiare la terra rossa perché si scivola e c'è meno impatto. Però anche il nuoto potrebbe essere da un certo punto di vista controindicato. Mi spiego. È bene verificare se il tratto lombare della colonna di Antonio è ben protetto da una muscolatura forte, perché non è detto che solamente nuotando, solamente giocando a tennis, questa muscolatura rimanga attiva e sia in grado di proteggere questo disco che viene troppo sollecitato. Perché se questo disco lui continua a sollecitarlo in maniera abnorme, quest'ernia da piccola potrebbe diventare grossa e potrebbe creare dei problemi. Allora è bene verificare attraverso dei test clinici funzionali molto precisi se tutti i muscoli che partecipano a controllare il carico che avviene a livello delle sue vertebre lombari sono ben attivi. Perché i muscoli ci proteggono. Se ho 2 secondi, posso farle un esempio molto preciso. Lo chiedo a Carmelo, possiamo dopo le informazioni sul traffico? No, Carmelo ha detto sì, vada. Immaginiamo di avere, consideriamo il nostro addome come una scatoletta di pelati che ha una parete anteriore, laterale, posteriore e 2 coperchi, uno sopra e uno sotto. Il coperchio superiore è il diaframma, il coperchio inferiore è il pavimento pelvico, e il coperchio laterale è formato dai nostri muscoli. Più forti sono i nostri muscoli e più siamo in grado di agire sul pavimento superiore e inferiore, e meno pressione noi avremo a livello delle nostre vertebre. Ecco perché dobbiamo fare esercizi che favoriscono il rinforzo muscolare della nostra parete addominale. Essere e benessere. Il nostro modo di essere condiziona il nostro modo di stare, perché la rigidità che avvertiamo a livello dei nostri muscoli potrebbe essere anche la conseguenza del nostro modo di approcciare, affrontare la vita e i problemi. Sicuramente qualcuno o qualcosa oggi, sono le 11:48, ci ha già fatto entrare in tensione. Direi che ci meritiamo un breve ma efficace esercizio di rilassamento capace di parlare al corpo e alla mente. Lo sappiamo, l'abbiamo detto più volte, ce l'hanno spiegato tanti esperti, che corpo e mente si parlano e si condizionano reciprocamente. In linea con noi è tornata a trovarci Tite Togni, insegnante di yoga certificata Iyengar. Ciao Tite. Namaste a tutti. Tite, rilassarsi potrebbe essere semplice, anche però sarebbe utile conoscere alcune tecniche che ci aiutano a prendere consapevolezza. Di che cosa? Del nostro respiro, questo straordinario ponte che mette in collegamento proprio la mente e il corpo. Grazie, grazie veramente per le parole che utilizzate. Anche la scatoletta dei pelati è indicativa. La magia del nostro corpo è che, rispetto alla scatoletta, è che non è fatto di materiale rigido, può sempre cambiare. Grazie anche al respiro, che è l'altro settore insieme a quello delle posizioni dello yoga, il pranayama. E quindi vi propongo il primissimo, facilissimo esercizio di respirazione che potete fare sdraiati in spiaggia o sdraiati in una branda in cima a una montagna quando sentite gli effetti dell'altitudine che vi bloccano il respiro, in qualsiasi posizione, sdraiato o anche seduta, per esempio al muro. Si chiama Viloma. Ed è un modo per mettere, diciamo, sotto la lente di ingrandimento il respiro e quindi prenderne consapevolezza in ogni sua parte. Si chiama cioè respiro frazionato. Innanzitutto lo facciamo con l'inspiro perché è più facile. Quindi vi preparate respirando assolutamente normalmente e il più rilassati possibile, senza volere assolutamente controllare, e poi al prossimo inspiro inspirate un pochino e poi vi fermate, ancora un pochino e poi vi fermate e poi terminate l'inspiro ancora con una pausa e poi espirate normalmente. E poi, quando avete respirato di nuovo normalmente, potete ricominciare lo stesso esercizio, quindi con l'inspiro frazionato in tre pause, e questo darà un reset, è come dicevo, rimettere il respiro sotto la lente di ingrandimento. Tu giustamente dicevi, mi avevi detto, è come lavarsi la faccia, è come risettare, lavare il respiro. E quindi l'ideale è farlo alla mattina anche appena svegli, oppure quando si comincia a sentire che per effetto di stress, per effetto di paura, per effetto dell'altitudine, per effetto, ci sono innumerevoli scuse per bloccare il respiro, quando voi sentite che questo blocco si avvicina, vi concentrate e fate questo esercizio di Loma Pranayama. Tite, quindi tre step, un respiro che si fa a tre step, come salire tre scalini. Primo scalino, come inspiro, trattengo, intanto mi allargo un po', secondo e terzo, e poi via. Laviamoci, esatto, la faccia, laviamo via le tensioni. La faccia, e nello stesso tempo allarghiamo al massimo il torace. Sapete che utilizziamo il torace per respirare in maniera indecorosa generalmente, cioè molto indecorosa. mi sembra al di sotto delle nostre possibilità. Senti, tra l'altro Tite, un modo proprio per capire se siamo bloccati, se il nostro respiro è circolare, ci prende, è proprio quello di mettere la mano sulla pancia, di capire se l'ombelico si muove o si sta fermo. Questo è un esercizio che ci avete insegnato, molto semplice, che io tante volte, una sorta di test che faccio per capire se ho il respiro bloccato in alto e quindi tutta tesa, oppure se il mio ombelico è felice, come diciamo felice, insieme a Daniele Belloni. E allora potete fare la fase successiva, provate a mettere le mani a lato della cassa toracica e fare l'esercizio Viloma. Sentirete la magia dell'elasticità e delle potenzialità della vostra cassa toracica, che è sempre elastica, non è fissa. Grazie Tite Togni. Grazie a voi. Un abbraccio. Namaskar. Luciano dalla provincia di Salerno e poi Mattia da Brescia. Luciano, benvenuto, buongiorno. Buongiorno a lei e ai suoi ospiti. Avevo da porre un quesito. In effetti io è da un po' di tempo che sto andando a camminare con un passo veloce. Sto alternando con 3 minuti di passo veloce e 3 minuti di corsa. Però ho dovuto smettere varie volte perché sono sempre raggiunto da crampi che mi durano poi per oltre 15 giorni, quindi poi smetto, poi riprendo e ho sempre questo problema sui polpacci. Sui polpacci che mordono. Sì. Mattia da Brescia, intanto segniamo l'indicazione di Luciano e andiamo a Brescia. Mattia, buongiorno. Buongiorno a voi. Una domanda per il medico e volevo chiedere se e quanto è buono il cosiddetto scrocchiarsi le ossa delle mani, della schiena e del collo. Perché lei riesce a fare tutti questi scrocchi da solo, Mattia? Sì, con la schiena, col collo e con le mani. Dottor Meleganti. Bene, rispondiamo a Mattia. Sì. Non c'è niente di male a farsi scrocchiare le dita, però poi se diventa un'abitudine e un tic, questo non va bene, perché comunque un pochettino di stress a livello delle nostre articolazioni lo provochiamo, e soprattutto a livello del rachide cervicale, perché ci sono persone che senza lo scrocchio del rachide cervicale non si sentono a proprio agio. Questa è una cosa invece da tenere sotto controllo e quindi da fare ogni tanto, ma non come abitudine. Per quanto riguarda i crampi del signor Luciano, Sì. Beh, bisogna capire perché questi crampi vengono. I crampi non devono venire, non è normale che possano venire crampi, e quindi i crampi vengono o perché c'è un problema di disidratazione, che in genere è il problema più frequente. Sì. E allora lì bisogna valutare bene quanto uno beve e cercare di capire, come spesso succede, che deve bere di più. Oppure è un problema, potrebbe essere un problema circolatorio, e allora anche lì bisogna valutare bene se attraverso gli esami adeguati si possa trovare qualche problema circolatorio, vascolare. La telefonata di Luciano mi permette di chiederle, dottor Melegatti, a proposito di rigidità, ma soprattutto di dolore che si avvertono, che le persone che fanno attività sportiva spesso avvertono dopo l'allenamento. Parliamo naturalmente di sportivi amatoriali o di sportivi che stanno facendo il passo per diventare amatoriali. Che cosa si fa? Beh, intanto questo dolore è una assolutamente normale, un po' di affaticamento muscolare provoca sempre dolore, e poi ci sono attività sportive muscolari che prevedono un impegno particolare dei propri muscoli, un impegno che noi chiamiamo eccentrico, e questo può dare dolore anche che può mantenersi nelle ore e anche nei giorni successivi. Viceversa, il dolore da affaticamento, quello lo si può controllare tranquillamente con un po' di allungamento muscolare dopo l'attività e magari con un'immersione in acqua fredda, perché questo è un punto questo su volevo, cui batto spesso. Volevo arrivare proprio a questo, per chiudere con questo consiglio molto rinfrescante: il ghiaccio, una vasca di ghiaccio difficile da reperire, molto più facile reperire una vasca con l'acqua fredda, magari con qualche cubetto di ghiaccio dentro, e rimanerci per una decina di minuti coprendosi adeguatamente nella parte superiore e magari facendo degli esercizi di movimento, di mobilizzazione degli arti inferiori. Quindi non il caldo, bensì il freddo, assolutamente. È l'acqua ghiacciata, e con questa immagine che ci regala assolutamente un po' di fresco, io vi saluto. Vi ringrazio per averci seguito e partecipato così numerosi. Dottor Melegatti, grazie per grazie essere a lei, stato grazie con noi. A Carmelo Lauricella, che ha provato a fare l'esercizio, devo dire che è abbastanza flessibile, ma solo da una parte. A Laura Vanossi, che invece mi ha fatto fare l'esercizio per metterlo sulla pagina Facebook. Un saluto e un ringraziamento. Noi ci sentiamo domani. Essere e benessere.